avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Io non lo so, cioè, ero con mio figlio e ho dovuto spegnere, cioè, questa apologia della prostituzione femminile, cioè, non è ipocrisia, non è essere bacchettoni, ma che senso ha affrontarlo in quella maniera? Come se una donna avesse bisogno di prostituirsi per poter vivere al giorno d'oggi nella nostra società, se tutti gli uomini avessero bisogno di andare con una prostituta quando non è così. Ma parli per lui, parli per lei. Possono essere questi gli argomenti da fare con queste puttane e i puttanieri? Ma non vi vergognate? Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Riprendo soltanto per questa mattina un'antica abitudine di quella di dare la voce al dissenso, anche perché con mio grande cruccio ho un così limitato dissenso ultimamente, comincio a insospettirmi, forse è ora che cambi qualcosa. Ricordo che ero confortato ogni mattina dalle meravigliose voci d'odio, la gente mi voleva uccidere o da passarmi sopra con l'automobile, mi prometteva soldi purché mi fosse levato dalle scatole, e la gente arrabbiata, scandalizzata, vituperata, chi minacciava, chi telefonava ai vescovi, agli arcivescovi, ai parenti politici e via dicendo, tutti avrebbero voluto la mia testa. Adesso sembra che vada bene a tutti, questo veramente mi preoccupa molto. Soltanto questa mattina ho avuto un lieve barlume in cui si sono risvegliati alcuni personaggi che mi ascoltano, irritati dallo spazio che ho dato ieri alla signorina Tenera Valls, signora anzi, l'ex professoressa che ora si prostituisce. Ma io volevo soltanto dire, ma perché io dovrei essere impedito di trattare argomenti di attualità quando entrano nella sfera del pruriginoso? Accade così raramente. Questa signora è stata intervistata da televisioni, sono usciti grandi servizi, mi sembra, sull'Espresso, su Vanity Fair, su grandi settimanali, è normale per tutti, ne parlo io improvvisamente. Quello c'era il ragazzino che ascoltava, quell'altro dice che vergogna, ma non pensiamo che nella società, ma io non ho dato nessun tipo di lezione, nessun tipo di indicazione, nessun tipo di complicità, ho semplicemente trattato un caso. Esce un libro che sta diventando un successo, nelle vetrine di tutte le librerie, una storia vecchia come il mondo, che non ha nessuna stigma di originalità, non è particolarmente segnata, però mi sembrava attuale, concreta, nel momento in cui gli insegnanti scendono in piazza, in quella categoria così sott'occhio, un insegnante di greco e latino che rappresenta la quintessenza del rigore, dell'attestato di allineamento totale con tutte le buone regole della società perbenista, improvvisamente decida di buttare il vocabolario Rocci alle ortiche, si mette la Gepier e fa la puttana. Era divertente, vi siete scandalizzati, mi dispiace per voi. Volevo sapere se lei si immagina come sarà la sua vita quando avrà terminato questa professione, se è una domanda che si pone. Se fosse stato maschio invece di donna, che cosa avrebbe fatto per superare questi momenti di turbe? Volevo sapere se la signora ha una gratificazione sessuale, economica, solo quelle, o anche mentale? E se sì, com'è stata la sua adolescenza? Questo poi è il cotè più fantastico degli ascoltatori. Quelli con la pretestuosità dell'inchiesta, della domanda intelligente, del millantare capacità e profondità. Vorrei domandare se oltre la sua gratificazione sessuale, cioè sente la bavetta che scende, fisica, che non sono sugli stessi piani, c'è anche una soddisfazione mentale. Ma che vuol dire? Ma che vi importa? Ma domandalo alla tua corretta signora, sarà un problema suo. Poi l'ha detto, le piace, lo fa. Sembra in questo momento voglia prendere le parti di Tenera Valls, che è già dimenticata, è già nell'oblio degli ospiti passati, che è un buco nero senza fondo in cui butto ciò dietro le spalle, tutto quello che ho già fatto. E poi naturalmente le voci indignate, le signore sempre pronte a puntare il dito contro questa sorta di esternazione del malcostume. I mezzi di comunicazione di massa galleggiano nel compiacimento, nell'ostentazione, nel sottolineare. L'apice dell'attenzione politica degli ultimi mesi è stata tutta basata su un fatto di sesso, sull'auscultazione di piccole vicende, di pompette pneumatiche, di pompe fisiologiche e cose del genere. I più grandi, austeri, illustri, maestri della penna e del giornalismo su questo si sono sperticati negli ultimi tempi. Mi sembra che sia l'argomento che più ha entusiasmato, attizzato, capovolto il senso civico di questo paese. Ma se io chiamo una poveretta che ha scritto un libricino e racconta le sue marchette come se fosse un'epica fantastica, perché ora dovete prendere? Perché ho fatto questa introduzione? Perché l'argomento di oggi è proprio questo: è il rapporto del fan, dell'ascoltatore, di colui che segue un personaggio, un programma, un essere che è fortunatamente attraversato da un momento di pallida o splendida celebrità. E qual è il rapporto che lega queste persone? Esiste un rapporto di profonda simbiosi. Non esisterebbe un personaggio noto del mondo dello spettacolo, del pensiero, della politica, di quello che volete, se non ci fossero persone che lo seguono con attenzione. Più il personaggio è noto, più naturalmente ha un vasto pubblico o delle persone che con varie gradualità di interesse lo seguono. Questa è la prima lettura. Poi all'interno di questo rapporto esiste una sottospecie di rapporti molto difficilmente espressi, esprimibili e molto difficilmente e facilmente in superficie, che è l'aspetto malaticcio, è l'aspetto morboso, è l'aspetto periglioso, è tutto ciò che un personaggio avverte nelle persone che lo seguono. Parlo come sempre faccio, come se fossi cavia vivente del pensiero che sto esprimendo. Naturalmente fa piacere, naturalmente è bello che il tassista nel momento in cui gli metti i soldi in mano ti dica la sento tutti i giorni alla radio, e ti piace quando sei nella metropolitana che ti fermi la piacente signora, ma anche il puzzolente vecchio la stessa cosa, e ti dica la sento, l'ascolto, che bello. Questa mattina ho letto il messaggio su Facebook di una persona che mi dice, un uomo dice, io tutte le sere la sento in podcast dentro il letto, perché mi piace pensare se dovessi schiattare la notte almeno me ne vado con l'ultima voce che ascolto, è quella sua. Queste sono cose che ti riempiono il cuore di piacere. Poi d'altra parte esiste un bagaglio insopportabile. Io mi metto molto in gioco, frequento molto persone che mi ascoltano, la redazione qua è aperta, viene chi vuole a seguire la trasmissione, ho un profilo Facebook con 10.000 persone, tutti i giorni mi scrivono, cerco di rispondere a tutte le persone che mi scrivono, molte volte mi interesso, mi appassiono, gran parte del bagaglio di conoscenza del mondo, dell'umanità che a volte trapela questo microfono, me lo faccio perché sto ad ascoltare le persone, sono curioso delle vite degli altri, ma allo stesso tempo mi sento appesantito in maniera viscerale dalle vite degli altri. Beh, oggi vorrei che dal vostro punto di vista, chiamando l'800240024, mi raccontaste come vedete voi questo rapporto. Appunto, voi che siete pubblico, voi che siete fan, voi che seguite cantanti, attori, registi, cineasti, conduttori televisivi, conduttori radiofonici, uomini politici, donne di malaffare, insomma, qualunque persona del mondo dello spettacolo, dai ranghi più infimi, che è quello appunto del conduttore radiofonico, ai più splendenti, che è il conduttore di Domenica Inn. Io mi pongo sempre il rapporto con Giletti. Mettiamo che l'arco della notorietà, della celebrità ha due estremi. Da una parte ci sono io, dall'altra parte c'è Giletti. Ecco, in tutto quello che c'è in mezzo di possibilità, come vi ponete voi? Voi mi assalite come un branco di lupi affamati perché non sopportate la vostra realtà e il vostro modo di essere. Sì, il mondo è un posto veramente terribile. Sì, il cancro e le immondizie vi sommergeranno. Sì, la guerra sta arrivando. Il mondo è andato al diavolo e voi siete tutti fregati. È tutto sotto sopra, ma a voi sta bene così, no? Che sareste senza di me? Io vengo qui ogni sera, vi dico come la penso, vi dico le cose in cui credo. Vi dico quello che siete e devo farlo, non ho altra scelta. Io vengo qui e vi distruggo, io abuso di voi, io vi insulto e voi mi dite fallo ancora di più. Ma che vi prende? Perché continuate a telefonarmi? Non voglio sentirvi più, non chiamate! Andate via! Siete solo un branco di bigotti senza spina dorsale, un branco di miserabili alcolizzati. Siete divorati dall'insonnia, paranoici, disgustosi, pervertiti, guardoni, fissati con la pornografia. Ecco cosa siete! Beh, andate al diavolo! Tenetevi pure la vostra stupidità, io non la voglio! Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Niente di nuovo sotto il sole, non si inventa nulla. Questo è il protagonista di Talk Radio, che faceva un programma radiofonico di notte, aveva questo rapporto sadomasochistico con il proprio pubblico, più lui si arrabbiava, più quelli si attizzavano, e alla fine lo hanno revolverato ben bene. È un mito, come ogni mito deve essere divorato dai suoi adepti, deve essere divorato. Beh, col pifero si può anche farne meno. Sì, sì, ma escluso te, però partendo dal mondo greco, visto che la professoressa insegnava greco. Perlomeno a piccoli bocconi. Sì, sì, sì, partendo... sbocconcellato, come un aperitivo. Comunque, un tempo o mythos deloi, cioè il mito insegnava qualcosa, oggi il mito è solamente un guscio vuoto in cui ciascuno sversa il liquame della propria immaginazione più o meno fervida, spesso è così, e spesso il mito ha bisogno di essere appunto cannibalizzato. Bello sentirsi come un pozzo nero in cui ripeto, una non fossa è riferito, biologica. Non è riferito a te, no, però no, spesso nel rapporto fra fan e mito si crea questa sorta di volontà di proiezione individuale e soprattutto di divoramento, di superamento. Non c'è l'ammirazione, perde i suoi confini e diventa qualcosa di letale, c'è un fondo nero in questo. Ecco, la storia del cinema, questo rapporto perverso, sempre criminale alla fine, perché alla fine il fan cosa vorrebbe dal suo idolo? Vorrebbe mangiarselo, divorarselo, isolarlo dal mondo, tenerselo solo per me, farlo soffrire, un insieme di cose che si intuiscono dalle voci particolarmente veementi, rosi, delle persone che ti chiamano per dirti semplicemente che hai detto una parola sbagliata, che ha urtato un loro principio indissolubile. Chi si trova dalla parte di colui che parla, che espone, non si mette mai nei panni dell'altra persona, perché a me non verrebbe mai in mente di arrabbiarmi per un pensiero espresso da un'altra persona, a meno che non mi insulti personalmente me e lo stretto giro dei componenti femminili della mia famiglia. A me non me ne importa assolutamente nulla, può pensare quello che vuole ognuno, ma evidentemente quando si sta dall'altra parte si immagina che ogni parola, ogni respiro, ogni soffio, ogni pensiero sia rivolta contro se stessi, contro la propria carne. E può accadere, è un episodio molto noto nella storia del cinema, che a un certo punto l'incontro cruento di un grande scrittore con la sua sfegatata lettrice si risolve in una situazione molto poco desiderabile. Sono la tua ammiratrice numero uno, non ti devi preoccupare di niente, andrà tutto bene, vedrai, mi occuperò io di te. Sono la tua ammiratrice numero uno. Dove sono? Siamo vicini a Silver Creek. Da quanto? Ormai sono 2 giorni. Sono certa che te la caverai. Mi chiamo Annie Wilkes. Una mia ammiratrice. Sì, proprio così. E faccio l'infermiera. Io devo dire, certe volte mi sveglio sudato nel cuore della notte e mi sento anch'io vittima della terrificante infermiera di Misery non deve morire, che era talmente affatturata da questo scrittore, autore di romanzi, tanto che lo prende, lo sequestra, lo lega a un letto, prova anche a spezzargli le ginocchia con un martello, gliele spezza, non ricordo bene, alla fine lui lo ammazza, ma lei ritorna su come tutti i mostri ai fini dell'orrore finché lui non la distrugge. Beh, voi quale personaggio del dorato mondo dello spettacolo avete avuto al centro del vostro cuore, avete tuttora la vostra attenzione? Cosa sareste disposti a fare per incontrarlo, per avere con lui un meeting di qualunque tipo voi desiderate o vogliate, anche soltanto per stargli vicino o per raccontargli la vostra insignificante, insulsa ma fantastica storia? Giuseppe Sansonna, Misery non deve morire. Quindi Katie Bates, infermerina per amore dell'arte, che cattura nella sua ragnatela Paul Sheldon, appunto questo scrittore che appunto lei orienta, perché questo ha scritto romanzi d'appendice di cui lei si è innamorata, di questa eroina che lui ha tratteggiato e che serve a lei per vivere. Quando lui la uccide, quando lui scopre che l'ha uccisa in questo romanzo per orientarsi verso romanzi più personali, più viscerali, più vivi, lei impazzisce, non lo accetta e appunto lo torturerà, gli imporrà di far rivivere, di far rinascere il suo mito. E questo è il fan vero, appunto, che orienta. Lui è costretto a riscrivere la storia perché lei lo minaccia fisicamente, lo droga, lo distrugge, poi alla fine c'è una scena terrificante, vuole spezzargli le ginocchia con un martello. No, gliele spezza martellate, una scena che ha inquietato la mia infanzia. Quindi cioè, il fan vuole abitare e divorare la poetica del proprio artista, cioè orientarla, determinarla, non può, non posso possono esserci deviazioni. Nel presepio mentale del fan, il mito deve stare sempre collocato. Lui la uccide spaccandole il cranio con la macchina per scrivere, sì, alla fine. Metafora. Lei non muore mai alla fine, perché la prova a ammazzare, non muore mai. Era un'energumena gigantesca, grassa, con delle manone. E lui la ammazza spaccandole il cranio con la macchina da scrivere. Sì. Io per fare qualcosa di simile dovrei prendere questo Neumann, che è piuttosto importante, usarlo come arma di offesa. 800240024, uscita allo specifico di cui stiamo parlando, avete avuto un personaggio noto per cui avreste fatto qualunque cosa, fino magari ad ucciderlo. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto volevo ringraziare, perché ho ricevuto un libro con la sua dedica. Ah, un libro infame. In relazione a Marco Valdo. Lei è stato così gentile, si è ricordato che io ero un lettore di Marco Valdo, e l'ha incluso nella dedica. Quindi lei ha già una reliquia a casa sua. Guardi, le devo dire che lo sto facendo vedere a tutti e ho apprezzato la sua delicatezza. Quale? No, io di delicatezze non ho mai avute in vita mia per nessuno. Quale sarebbe la mia delicatezza? No, si è ricordato che io le avevo proposto questo libro e l'ha messo nella dedica. Non aggiungo altro perché so che lei non vuole complimenti, però. Vabbè, andiamo al punto. Sì, dicevo, questo cosa le farebbe? Esca un attimo dalla mia circostanza personale, se no mi imbarazza. Esiste nel mondo dello spettacolo qualcuno per cui lei farebbe qualsiasi cosa? Ma guarda, io suono la chitarra da più di 40 anni, quindi un personaggio che seguo molto è il signor Santana, Carlos. Il signor Carlos Santana, che gli ho scritto anche su YouTube. Fra parentesi, ho scoperto, o almeno penso che ho scoperto, che un pezzo di Europa c'è la stessa armonia della passacaglia di Handel. L'ho scritto qualche parte, qualcuno mi ha detto parole dicendo: ma cosa avete se lei lo avesse davanti, cosa farebbe Carlo Santana? Gli chiederei di suonare la sua chitarra, di fare un duetto insieme. Però ecco, volevo dire una cosa riguardo il rapporto con i fan. Penso che quello che spinge, diciamo, ad avere un rapporto col fan è inevitabilmente il desiderio di partecipare un pochettino della sua notorietà. Però c'è modo e modo, chi lo fa in maniera discreta ed educata, senza invadere, diciamo, troppo il privato, e invece chi esagera diventa addirittura un persecutore, no? Sì, però lei si renda conto che il personaggio noto è noto perché ha fan, quindi è l'alimento del personaggio, è la ragione d'esistere del personaggio, non dovrebbe avere un rapporto di subordinazione, anzi, dovrebbe dire: io sono il tuo editore, tu esisti grazie a me. Gianni, buongiorno. Ah, buongiorno. Io, come tutti i ragazzini, avevo il mito del grande calciatore, l'uomo che tira l'ultimo rigore nell'ultimo secondo dei campionati mondiali. Tutti i ragazzini che giocano oggi resta l'uomo che tira e basta, perché è un po' cambiato. Esatto, però questa cosa qualche anno fa è successa a Fabio Grosso. Io mitizzavo, cioè, chissà questo qui quali emozioni, questo rigore, eccetera. Casualmente, pochi mesi fa. Scusi un attimo, Sansonna, chi è Fabio Grosso? Scusi, io ho decretato la vittoria dei mondiali dell'Italia ai mondiali del 2006. Scusi, ma io ho delle lacune incolmabili in questo campo. Niente. Questa cosa è successa veramente. Proprio il calciatore all'ultimo secondo, il rigore che il mondiale. E lei in quel momento cosa è successo nella sua equilibrio ormonale? No, mi chiedevo, cioè, questo proprio, che cosa pensava questo uomo, l'uomo che aveva la palla decisiva della sua vita. Pochi mesi fa eravamo seduti accanto ad una partita di basket, che è un ambiente molto meno aggressivo e permette di fare quattro chiacchiere. E io mi sono presentato e gliel'ho chiesto. Gli ho detto: ma quando uno si trova davanti a questa palla, ma che cosa pensa? Lui era lì col figlio, molto sereno. E come l'ha risposto? E lui mi ha detto: guardi, non mi ricordo niente, me l'hanno chiesto tutti, ma io non mi ricordo nulla, e io ci sono rimasto malissimo. E questa cosa mi ha proprio avvilito. E beh, ha avuto un grande colpo. Lei quanti anni ha, per curiosità? Perché 53. È 53, più giovane di me, ma non faccia l'aria da vecchio. 53. Vabbè, beato lei, vorrei averli io ancora 53 anni, sarei un ragazzino. Grazie, buongiorno Gianni. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ragazzi, vi presento un mio grandissimo amico, Manuel Fantoni. Salve. Ma davvero Giovanni era frocio? Beh, ma sarà capito, io me ne ero accorta da un pezzo. Ma che stai a dire, accorta? Accorta di chi? Ma scusa, non te lo ricordi come scendeva da cavallo? Con quella gambetta così? No, mi è crollato un mito, di mortacci sua, mi è crollato. E dimmelo a me. E Marlon Brando? Uguale. No, non è vero, non ci posso credere. Ma scusa, se te lo dice lui che in America c'è stato, che l'ha conosciuti. Senti un po', e Burt Reynolds? Che mi dici di Burt? No, Burt no, no, voglio sentire, non voglio sentire. No, lui comunque si salva, eh. E di De Niro? Che si dice di De Niro? No, da quel punto di vista è uno regolare, mandrillo da niente, eh. Tiè. Ma è vero che è pure Roger Moore un po'? Ma che cazzo sta a dire, mo pure Roger Moore è frocio? E che ne so, stava a dire la sorella di Giulio. La sorella di Giulio dice un sacco di fregnacce. Pensa che l'ultima raccontata è che Renato Zero gli dava un bacio con la lingua, figurate. Ma guarda che può essere vero, Renato ci ha provato pure con me, te lo giuro. Ah cosa, ma che te che dica non conosca Renato? Ma guarda che non è uno scherzo, mi potesse piana paralisi. 800 24 00 24. Un fantastico film di Verdone in cui è rappresentato in maniera esemplare, devo dire, il livello di percezione della celebrità, del mito, dell'aureo mondo del cinema dalla media popolazione. In questo caso Verdone aveva ereditato un bagaglio di conoscenze intime sulla vita sessuale dei grandi divi di Hollywood da un millantatore totale e l'aveva rifatta sua con un giro di infermiere, di amici, di amiche. Sì, questo è Borotalco con Verdone che appunto ci mostra come abitare le alcove dei propri miti sia la cifra specifica, cioè avere informazioni sulla sessualità oltre che sulla morte. Io avevo fatto una ricognizione filmica sul mito di Rodolfo Valentino e mi ero reso conto che i fan tuttora che lui va nella sua città natia parlano ossessivamente della sua sessualità. Tu hai fatto un film su Valentino, sì, non sì. Fare il modesto, lo diciamo. Sì, sì. No, appunto, lui parlano della sua omosessualità, parlano invece del suo essere un grande amatore. C'è qualcuno che vuole portare la salma di Valentino da Hollywood, riportarla a Castellanete con tanto di firme, di petizioni comunali. Per avere la prova della sua verità. No, gli ha costruito, vuole costruire una piramide, cioè espiantarlo senza nessun titolo da Hollywood e portarlo in una sorta di piramide costruita a Castellanete. Sarebbe giusto. Però. Sì, ha una sua coerenza nella follia. Appunto, quindi ci si attacca su Eros e Thanatos, su questo. Cioè, il mito va orientato su questo, va scandagliato fino in fondo su questi aspetti. Diciamo anche quella della presunta non virilità dei grandi miti, la verità del cinema è un vecchio giocare con le facezie, antico come il mondo. Poi a un certo punto il marketing dell'immagine in realtà ha creato fantastiche fidanzate ombra, fantastici marchi di vestiario ipervirile per mantenere viva un'idea, però siamo sempre lì. E anche un po' la vendetta del rosicone nei confronti del fan che, non sapendo che dire, sì, però quello, sai, c'ha quel problemino, così si diceva almeno una volta. Sì, c'è la competizione anche del fan che entra appunto in conflitto rispetto alla virilità del suo mito. Ecco, questo non è naturalmente il problema dell'ascoltatore Leonardo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vediamo il suo faro di riferimento, la luce che illumina il suo immaginario. Ma guardi, la luce che illumina il mio immaginario è Monica Bellucci. Beh, ormai è, diciamo, è una lampada un po' Alogena, ecco, sì, a basso consumo. No, assolutamente, rientra, cioè fa le sue apparizioni sempre riferite alla sua, come dire, bellezza di riferimento, oso dire. Sì. E la seguo da quando ancora era iniziale la sua carriera di modella, casualmente. Ma quindi lei l'aveva conosciuta quando ancora non era così nota? No, magari l'avessi conosciuta. Lei ha chiesto cosa farei, no, la seguivo già a suo tempo quando non era nota, sui giornali, no, eccetera. Si attenda perché certe cose si va a finire dentro poi alla fine. Il penale? Sì, il penale, come si dice. Ma in maniera fotografica, diciamo. Peggio ancora, ma scherza, è ancora più grave. Blow up. Andava a fare foto di nascosto alla Bellucci. No, assolutamente, no, la seguivo. Da suo tempo c'era Foto, circa 20 anni fa, sì. Adesso è un po' perso. E lei veniva presentata in copertina come una delle nuove leve che doveva andare nella moda italiana. Poi col tempo è diventata il riferimento italiano di quel tempo. Adesso è sufficiente, lei digiti Monica Bellucci in un motore di ricerca e ne ha a volontà. Milioni di pagine. Infatti io ce l'ho come screensaver in quasi tutti i computer, iPad che ho. Ecco, come mai? Io capisco che diciamo nella costruzione fittizia di universi fantastici è all'apice la Bellucci. Perché si è fissato con la Bellucci soltanto? Ma è una cosa proprio, come dire, istintiva. Cioè, non ho mai trovato, a mio parere, nessuna donna che rappresenti la femminilità e anche Vede, non è una grandissima attrice, lì c'è Sansone che è sicuramente un esperto. Sì, massimo. Beh, non occorre, scomodare Sansone, che ha l'espressività di una patata lessa appena tolta dall'acqua bollente. Questo, ma non è quello che interessa, che importa. No, io l'ho seguita nel primo film, La Riffa, che dove fa una parte abbastanza, come dire, tagliata su di lei, se così posso dire. Beh, oddio, uno che mette la moglie a giro con gli amici, comunque... Un tenero omaggio del fan. Che a quel tempo ho detto, se ci fosse una situazione reale dove potessi anch'io contribuire a fare un'asta per avere lei come moglie, devo dire che è stato un sogno che si è presentato più spesso. Poi dopo è ovvio che l'ho seguita, però ogni volta che... Ha anche fatto la foto classica col pancione quando era ingravidata su Vanity Fair. Vanity Fair, assolutamente, assolutamente. E anche quella le piaceva? Sì, mi piaceva perché non ho una... Cioè non è un istinto morboso nei suoi confronti, però è proprio vedere come una donna bellissima riesca comunque a rappresentare, secondo me, l'italianità molto meglio di altre, in questo senso, e riesca comunque a lasciare, a fare il suo percorso di vita, è più o meno mia coetanea, è più giovane, leggermente più giovane, da Città di Castello, però la cosa carina che... Anche lei è di Città di Castello? No, io sono di Modena. Però volevo dirle che da amici che ho conosciuto, che di Città di Castello, mi dice addirittura che la sorella è ancora più bella di lei. Non sì, l'ho mai vista. C'è sempre questo mito rispetto a un personaggio dello spettacolo. C'è sempre un fratello, una sorella che al liceo era molto più bella di lei. Ho sentito notizie molto vicine a un'altra grande diva italiana, di cui non faccio il nome che non mi voglio creare problemi. Dice, io sono stato in classe con lei, con la sorella, lei era un cesso, la sorella era veramente una cosa fantastica, capito? Nessuno avrebbe mai detto che la sorella brutta sarebbe diventata la diva e la sorella bella invece persa nel... Che poi se va su internet a un certo punto trova anche la Bellucci che fa un provino per per un programma dove veramente aveva 18 anni ed era anche brutta. Poi dopo col tempo si vede che esplode. Sì, col tempo, anche con qualche aiutino chirurgico, perché è innegabile. Ma non penso, perché mi sembra abbastanza... Ma che non penso, scusi, Cioè, non penso. Il seno non ha niente di innaturale, così mi pare. Vabbè, adesso non voglio entrare nei particolari, sono fatti della Bellucci. Poi alla diva non si chiede naturalità, guai chiedere naturalità a una diva. Nessuno diventa divo impugnando il baluardo della naturalità. Vabbè, Leonardo... Prenda un attimo fiato, si tranquillizzi. Mi ha scritto una cosa in tonti che non posso leggere alla radio, non so perché me l'abbia scritto. No, la sindrome di Pippa la, ah, cioè, no, scusa. Ma non c'è niente di volgare, la sorella di quella. Ah sì. Entra in questa sindrome di Pippa di cui si sta parlando tantissimo. No, vabbè, è la sorella di quella che ha sposato, sì, il principe, no? E quindi appunto la sorella più bella, ci facevano riferimento dalla regia e ci davano quest'assist a ricordare, perché era analogo alla questione la sorella più bella della protagonista, della diva stessa. Diciamo che la sorella Pippa Middleton, tanto per dire, moglie dell'Augusta consorte del futuro re d'Inghilterra. Quel volto equino, sì, per il primo. Sì, non ha nulla di particolare. A un certo punto si è scoperto che il brand che tirava di questa signora era una particolare foto in cui esponeva un di dietro nemmeno fantasticamente così creato, ma è bastato dire il culo di Pippa è la cosa migliore del mondo in Italia, soprattutto per la tragica assonanza con l'esercizio manuale adolescenziale legato a questo tema, improvvisamente sono tutti attizzati e non si parla altro che di Pippa. Vabbè, andiamo avanti. Massimo. Buongiorno, sono Massimo da Roma. Sì. Buongiorno. Allora, il mio mito è Benigni. Ecco, per fortuna cambiamo un po' genere, sennò sembra che... Allora, indugiamo. Il mito inteso, cioè in questo senso... Lei pensi, ho fatto un viaggio nell'Eurostar, cioè nel Frecciarossa con Benigni e la moglie, e tutto il tempo Benigni è stato a fare giocare con la settimana enigmistica, a fare cruciverba, tutto il tempo. Però, io dico, se le servono informazioni. Sì, ma in pratica il Benigni degli ultimi anni, questa trasformazione forse mi ha trasmesso qualche cosa, cioè per me è un mito, nel senso che è diventato... Cioè come Brosi, ha avuto un'illuminazione mistica. Sì, e io per questo lo seguirei dovunque e farei qualsiasi cosa per lui se lui me lo chiedesse. Forse gli serve un autista, un giardiniere, provi a dirglielo, può essere una buona occasione. Non in questo senso. Lei non andrebbe a fare il domestico di Benigni pur di stargli vicino gratuitamente? No, parliamo pagato? Di qualche cosa di più. No, pur di stare vicino. Io no, un organo, cedere un organo. Non è un mito inteso come... Nel Viale del Tramonto c'è il regista che fa l'autista alla diva di Hollywood pur di starle vicino. Sì, sì, Fostor Heim. No, non è così. È qualche cosa di... non lo so, io ho letto qualche cosa in lui che mi ha trasmesso questa fiducia illimitata, quindi forse è innamorato. Ma nell'ultimo Benigni, l'ultimo Benigni le piace più di quello antico? Sì. Come mai? Cosa c'è di così particolare? Non lo so, perché c'è questa trasformazione culturale, tutto il discorso della Divina Commedia in un momento storico dove diciamo la cultura in generale viene un po' messa da parte. Per fortuna è arrivato Benigni a leggere Dante. Tutto Dante, come i saldi della come massa. Non avremmo fatto mai senza, tutto veramente, Dante, tutto per Dante. Fortuna. Grazie, al cuor non si comanda, quindi non voglio gettare sale su ferite che poi sanguinerebbero e sarebbero più dolorose se io dicessi la mia su Benigni che legge Dante, e diamo la linea volentieri in questo momento alle informazioni per il traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Chiedimi qualunque cosa, ma non chiedermi questo. Non sono assolutamente in grado di condurre lo show per 6 settimane. Non sono in grado di condurre la mia vita per 6 settimane. Non capisci, Jerry, che mi stai chiedendo Rube? L'impossibile? L'impossibile? Rube? Non capisci che io... Che c'è? Che diavolo fai laggiù? È tardi! L'impossibile? Te l'ho già spiegato. Che altro vuoi da me? Vuoi che mi metta a piangere per fartelo capire? Ci deve essere. Devi trovare un modo per liberarti. Sono solo 6 settimane. Mi scusi tanto, signor Pupkin. Può farmi un autografo? Sì. Certo, come ti chiami? Dolores. Dolores, il nome di mio padre. Per Dolores che intuì la mia grandezza. Ecco tesoro. Grazie, signor Pucci. Di niente. 800 24 00 24. Ah, belli tempi in cui io vergavo la mia firma sulle rosse magliette della passione e ho circondato da persone con la maglietta rossa di Radio 24. Io mi ero fatto dare dei pennarelli indelebili aziendali con i quali firmavo una frase sulle magliette rosse. Venivano lì e introducevo la mano e firmavo la maglietta rossa della passione. Fu bellissimo un momento. Allora, Giuseppe Sansonna, stiamo parlando del rapporto fra fan e i propri divi, i propri punti di riferimento, iperurani, in questo caso di cosa parlavamo? Questo è un capolavoro misconosciuto di Scorsese, uno dei suoi film più violenti, anche se non c'è violenza, Il re per una notte dell'83 con De Niro, che Rupert Pumpkin vuol dire zucca, perché magnificamente ottuso nel suo essere fan, con questo capello lucido, nero, ravviato, questo baffetto, questi papillon colorati, divinizza e mitizza Jerry Lewis, che fa la parte di se stesso e lo insegue, perché però in realtà vuole prenderne il posto. E vive in questa casa con la madre che non vediamo mai, che gli urla fuori campo di smetterla, e ha queste sagome, questo pubblico come trompe l'oeil finto in cui lui si esibisce e sogna appunto di arrivare a questo show, ma vuole sostituirsi al suo mito, non lo ammira solamente, non c'è una tenera ammirazione, e il suo mito è vuoto come lui, perché anche Jerry Lewis vive imbalsamato in questi grandi show americani con le risate registrate. C'è una sorta di specularità fra il fan e il mito, tutti e due vuoti. Io ho conosciuto una mia collega che negli anni 80 era innamorata del Quartetto Cetra, tutti la prendevano in giro, allora erano tutti vivi ancora, mi ricordo, e questa moriva per il Quartetto Cetra, nessuno se lo spiegava. La vera fantastica follia del fan è per il divo fuori dai canoni, fuori dalle mode, che in quel momento nessuno vuole. Facile oggi essere fan di Monica Bellucci o fan di Clooney, facilissimo, sono in tutte le copertine, ma essere fan di qualcuno che è ormai caduto in disgrazia dal punto di vista della notorietà, non è più di moda, questa è la vera follia. 800 24 00 24, raccontatemi prego qualche vostra follia legata a divi dello spettacolo, del pensiero, dell'immaginario, che probabilmente oggi non sono più sulle copertine, ma che voi dareste qualsiasi cosa per star loro vicino. Salvatore. Buongiorno Nicoletti. Mi sente? Come no? Senta, ho sentito parlare prima, siccome io ascolto quando posso la sua trasmissione, ho sentito prima che parlavate di appunto la Bellucci, insomma i miti che molti i fans insomma ammirano e vorrebbero incontrare. Stavo appunto pensando a Ornella Muti, mi è venuto in mente quello che magari aveva in mente lei, di quella diva che non è la sindrome di Cenerentola. Noi ci innamoriamo delle sorellastre, ma in realtà quella bella sta a casa davanti al focolare come sempre. Ho pensato che lei alludesse a Ornella Muti, che era... No, non alludeva a Ornella Muti, era molto diversa, è un'altra persona. Beh, in ogni caso, Ornella Muti ai tempi, parlo di 25 anni fa, ecco, era abbastanza famosa, stava facendo un successo abbastanza grande nel cinema, insomma, di commedia soft. Sì, ricordo, bellissima, con Eleonora Giorgi, cioè la figlia era... Ornella Muti era amica, era figlia di un dentista, Eleonora Giorgi andava a curarsi i denti dal papà di Ornella Muti, e quando gli faceva l'anestesia lei aveva orgasmi multipli perché voleva farsi il padre della sorella. Questa è l'entrata del cinema di Ornella Muti. Però io ho conosciuto cito bene la sorella, Sanson. Sì. Io ho conosciuto la sorella di Ornella Muti personalmente, non ho avuto il piacere di parlare in prolovista, diciamo. Ah, vista da lontano. La conoscevo solamente perché lei, essendo una diva del fotoromanzo, non so, posso dire il nome, Claudia Rivelli, ecco. Sì, beh, si chiama Rivelli Ornella Muti, tutti lo sanno. Ecco, e questa ragazza. E lei leggeva i fotoromanzi quando andava dalla parrucchiera? No, io leggevo i fotoromanzi di perché c'era lei. Di Gabriel Pontello. Mi piaceva moltissimo, era molto più bella di Ornella Muti, secondo me. Eppure, insomma, molti fans... insomma, hanno preferito la sorella Ornella Muti. Lo però so. La Claudia Rivelli era decisamente... È la sindrome di Pippa, come viene detto oggi, che piuttosto della principessa d'Inghilterra l'attenzione si sposta sulla sorella. Non la prenda male, ma è così. Chiara? Eccomi qua. Allora, il mio personaggio che mi attira, insomma, è Frank Zappa, anche se purtroppo è morto, ed è un po' una stella, vive un po' il mio averci vicino, diciamo. Adesso non è poi il massimo, ecco, purtroppo, sì. Appunto, sarebbe un po' putrefatto. E poi, fra l'altro, oltretutto, io l'ho pure scoperto dopo che era morto. E com'era? Gli ha dato un'occhiata, com'era? No, l'ho ascoltato. Ho capito, l'ho scoperto. L'ho ascoltato in questo senso. E quando ero ragazzetta sentivo sempre parlare di questo Frank Zappa, poi era proprio era l'epoca, insomma, del rock. Quindi lei in una fase in cui sogna, come i fan di Elvis, di rivedere in presente il fantasma apparire del suo mito? Ma no, non particolarmente, no, in realtà mi cibo di, che ne so, i filmati che sono su YouTube, quei pochi che la famiglia permette di far circolare. Bene, c'è un caso, Sansone, visto che la sigla già ci sta facendo capire che la trasmissione è finita, mai avrei immaginato così velocemente, ecco, innamorarsi di un divo scomparso. Sì, ma poi Zappa è un mito articolato, ecco, avrebbe qualcosa da dire, e mentre per esempio Monica Bellucci, come ossessione esistenziale avere Monica Bellucci mi lascia più perplesso, ecco, insomma. Beh, sai, ognuno può amministrare il proprio immaginario come meglio crede, anzi è bene che lo amministri con piacevolezza piuttosto che rimanere represso e schiavo dei propri sogni irrealizzabili. Beh, abbiamo finito, Sanson, la prossima settimana ci sentiamo domani. Alors tous deux on est reparti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.